America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. I think we had a very encouraging meeting. Look, it's no secret that Donald Trump and I have had our differences. We talked about those differences today. Beh, vi avevo anticipato, ieri sarebbe stata la grande giornata dell'incontro tra Donald Trump e l'espressione della leadership del Partito Repubblicano, cioè Paul Ryan. Un incontro difficile, Ryan aveva rifiutato di appoggiare subito la candidatura di Trump. In questa dichiarazione, beh, abbiamo ascoltato Paul Ryan che dice subito dopo l'incontro, dice: beh, abbiamo avuto un incontro molto incoraggiante, non è un segreto che ci fossero delle differenze fra me e Donald Trump, e oggi abbiamo proprio parlato di queste differenze. Insomma, in nome dell'unità del Partito Repubblicano, Donald Trump alla fine si è incontrato appunto con il temporeggiatore Paul Ryan, ma non solo con lui, perché poi ieri mattina, insomma, ha fatto il giro delle sette chiese, si è incontrato con la leadership della Camera complessiva, con il presidente del partito, con la leadership del Senato, con altri protagonisti della capitale. Il messaggio è sempre quello: un po' temporeggiare, dobbiamo trovare la formula per unificare il partito non è ancora unito e così via, però alla fine, beh, vi dico la mia impressione, alla fine ha vinto sempre lui, il Donald. Perché? Beh, ma perché molto semplicemente alla fine il coltello dalla parte del manico ce l'ha lui. Non ha ceduto davanti a pressioni o dichiarazioni provocatorie come quelle appunto di Paul Ryan, e ieri di nuovo è apparso, come dire, completamente protetto, ha uno scudo enorme, uno scudo impenetrabile Donald Trump, che è lo scudo di questa sua smisurata fiducia in se stesso. Paul Ryan, I don't know him well, but I'm sure I'm going to get along great with him, and if I don't, he's going to have to pay a big price, okay? Ecco, Trump invece non ha parlato, c'è stato anche tra l'altro un comunicato ufficiale del partito, un comunicato in più punti, una di quelle cose che in genere noi troviamo, io ricordo, le trovo, non so, ai G7, ai G20, in questi incontri molto formali che tra l'altro Trump non sopporta questi formalismi. Però il piglio resta quello di qualche giorno fa, la dichiarazione che ho fatto sentire e fu la reazione al rialzo, perché Trump gioca sempre al rialzo contro Ryan, quando Ryan disse: io non potrò appoggiarlo, non ho ancora deciso se appoggiarlo o meno come candidato del partito. Beh, Trump ha detto: non mi appoggia, ma non ho bisogno del suo appoggio, già l'appoggio di 8 milioni di elettori, chi è questo signor Ryan? Anzi, se non mi vuole appoggiare, meglio, perché tanto io lo tolgo dalla presidenza della convention repubblicana di Cleveland. Insomma, l'anticonformismo, l'essere straordinariamente diretto, l'aggredire i suoi concorrenti o coloro che decidono di attaccarlo resta una prerogativa insuperabile di Donald Trump. E dunque qual è la conclusione? Ma la conclusione è che l'accordo si troverà. Ieri ci sono state le solite danze politiche, Trump ha capito che di facciata ciascuno deve difendere le sue prerogative, deve interpretare un suo ruolo e che questo è un po' il gioco di Washington. E dunque Donald ieri è stato al gioco, però dopo aver partecipato con diligenza a questi tre incontri, poi è andato anche in un ufficio legale tra l'altro per risolvere alcune pratiche, ha ribadito che è pronto a dare la sua dichiarazione fiscale prima delle elezioni, purché, dice il fisco, chiuda le pratiche di revisione prima. Ecco, questa sua resistenza a far vedere i suoi documenti fiscali, beh, come dire, ha incontrato critiche da ogni parte, da destra, da sinistra, dal centro naturalmente, perché ognuno dei candidati rende pubbliche le sue dichiarazioni fiscali. In questo caso Trump dice: sì, però io sono stato beccato dal fisco, mi vogliono fare una revisione, dunque in questo momento io non posso far vedere le mie carte. Solo una scusa, ma io non credo che il fisco chiuderà questa pratica prima delle elezioni, e dunque alla fine Donald non le farà vedere. Sarà danneggiato da questo? Non credo. Come del resto Trump non sarà danneggiato neppure da una spaccatura del Partito Repubblicano, neppure da divisioni insanabili che potrebbero impedire al partito di presentarsi uniti davanti agli elettori. Perché? Ma perché rischia poco. Come vi dicevo, il coltello alla parte del manico ce l'ha lui. Ha già giocato al rilancio. Quelli hanno, come dire, chiamato il suo bluff e lui ha buttato le carte sul tavolo, che sono le carte, come vi ho detto, di 8 milioni di voti. E dunque, ieri ho incontrato un personaggio, devo dire, molto influente nel Partito Repubblicano. Non è un politico, è uno dei più grandi finanziatori del Partito Repubblicano. repubblicano. Ecco, questo posso dirvelo, abbiamo parlato in confidenza, in anonimato, e lui mi ha detto letteralmente, perché questo me lo sono scritto, dice: ma guarda Mario, io ti posso dire che tutti questi che oggi fanno i difficili alla fine finiranno per cadere uno dietro l'altro come birilli, si metteranno tutti in linea e non solo, dice, e lo ha detto, devo dire, con convinzione. Donald vincerà la Casa Bianca perché è più forte di Hillary, perché l'ondata di appoggio popolare che lo contraddistingue è fortissima, perché lui è il vero cambiamento nella direzione che vuole la maggioranza degli americani. Hillary no. Ecco, il tono era sicuro, un po' come quello di Trump, magari poi questi due personaggi si assomigliano anche un pochino, e io mi domando se questo è davvero possibile. Nessuno dei commentatori, dei pundits, come si dice qui, ci crede, perché dicono una cosa è vincere le primarie, 17 milioni di americani, quindi una piccola minoranza, di cui tra l'altro tu hai preso il 40-50% dei voti, quindi 7-8 milioni di voti, e una cosa è presentarti davanti a 300 milioni di americani, che sono generalmente indipendenti, generalmente centristi, e che guardano con, diciamo, nella migliore delle ipotesi con sospetto e nella peggiore con ribrezzo, come mi ha detto una persona, a un personaggio così eclatante, aggressivo sopra le righe come Donald Trump. Detto questo, i democratici farebbero male a sottostimare la potenza di Trump, e questi commentatori, devo dire, finora non ne hanno azzeccata una su Donald Trump, e ha molte carte da giocare in questa sua continua partita poker. Per esempio, chi sceglierà come compagno di corsa? Ma un nome che mi è stato fatto con forte insistenza da più parti è quello di Susanna Martinez, governatore del New Mexico, una donna, una latinoamericana, una conservatrice. Dunque, quelli che dicono che Trump ha alienato il voto delle donne, il voto dei messicani o comunque dei latinoamericani, dei musulmani e così via, non mettono nel conto che questo personaggio è capace di fare dei tripli, quadrupli salti mortali con un'abilità straordinaria, e in genere è andata sempre bene. Inoltre, mentre lui ha già il campo libero perché Cruz e Kasich si sono ritirati, beh, c'è Hillary che sta faticando contro Bernie Sanders, perché quello ha vinto già parecchi stati e dunque continuerà a vincere, tra l'altro si dice che i prossimi due stati li vincerà lui, e dunque appare come un personaggio, come un candidato debole, soprattutto di fronte a uno forte come lui. È vero che ci potrà essere da un'unione, per esempio Bernie Sanders, Hillary Clinton, una mobilitazione del voto giovane, però anche Trump può mobilitare il voto, perché, tanto per farvi un esempio, normalmente chi guarda il suo reality show The Apprentice, no, visto da milioni di persone che però in genere non votano, non vanno alle urne. Però devo dire che c'era da scommettere che a novembre, quando il loro idolo sarà in corsa per la Casa Bianca, beh, magari una passeggiata verso le urne la faranno, non avranno molte altre occasioni di votare per lui e comunque di cambiare il corso della storia americana. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.